Si no te aprueban cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo. Bisogno di poesia per combattere l'aridità dell'anima a cui ci vogliono consegnare con il sentimentalismo di Stato. Sentirsi uniti e vicini per non sentire. La ragione è persa nella finta razionalità dei proclami di Stato, la coscienza individuale è persa, la logica dell'esistenza è persa. Rimane la superstizione scientifica, la fede magica nell'umanità medicalizzata in un mondo sanificato e anestetizzato. Meno si sente. Meno si comprende, meno si reagisce. Calm down è il mantra universale, la mindfulness è il nuovo oppio dei popoli. Vai limpido messaggio in un bel giorno di... Ah! Improvviso un urlo. È la crisi, è la crisi, è la crisi. Mi ha colpito, ho capito. Tutto sbagliato, finora tutto sbagliato. Come mai solo ora la verità mi ha colto e folgorato? Per evitare il contagio, vediamo posti di blocco. Droni, militari, sentinelle, sceriffi. Vediamo autocertificazioni e schedature. Criminalizzazione di comportamenti naturali. Sentiamo urla per strada dietro chi fa una corsa. Vediamo elicotteri o pattuglie inseguire qualcuno su una spiaggia deserta. Ma ignorano le grida dei carceri in sovraffollamento, i bisogni degli spazi collettivi e case occupate. L'emergenza di una casa non ce l'ha. Sentiamo le grida dei padroni a richiamare i lavoratori in fabbrica per garantire la cosiddetta produzione dei beni di prima necessità. Ma quali sono oggi le vere necessità? Futuro, fallimento, Covid, corpo, chiusura, clausura, censura, carcere, tutte libere, humus, portale, scienza, virus, spillover, mascherina, polmoni, respirare. Ricordo i primi di marzo, quando il Covid-19, non solo come virus, ma anche come nuovo ordine epistemico dell'esistenza, era già entrato nelle nostre vite, ma io non lo avevo ancora realizzato. Ricordo di non aver minimamente capito come sarebbe precipitosamente cambiata la mia vita da quel momento. Era il mio compleanno, e più che l'inizio di un nuovo anno, ora è il sapore della fine di un'epoca. Ricordo esattamente cosa ho lasciato senza minimamente sapere cosa mi aspetta. Contaminare è una parola così conscia di significati. La sua ambivalenza crea una crepa nell'ordine di senso. Voglio contaminarmi. Voglio stare con le mie compagne, dove sono tutte le mie compagne che mi hanno contagiato in questi anni. Don't mind the raindrops, wait till the rain stops. Smile through your tears, laughing at life. Io ho in testa due frasi. Una è quella di Audre Lorde, non puoi smontare la casa del padrone con gli strumenti del padrone. E quindi mi chiedo quali sono gli strumenti che possiamo usare per smontare questa casa. E l'altra è la frase che indica uno strumento, no? Che è quello della poesia. Ha così tante radici l'albero della rabbia che a volte i rami si spezzano prima di dare i frutti. Un po' mi fa pensare a come mi sento io, con tanta energia che non riesco a convogliare, tanta rabbia, tanta tensione fisica, tanta voglia di trovare delle strade e degli strumenti e anche tanta incapacità di sintetizzare tutto questo turbine di cose che comunque in questo momento ho nella testa. Vediamo sbirciare dai balconi spioni in cerca di untori, ricerca insensata di capri espiatori da incolpare, diffusione di senso di colpa, la società immediata dal virus, soluzioni poliziesche. Se state a casa andrà tutto bene. Hai presente quei giapponesi che non escono di casa? Io in realtà penso che nella vita in generale io potrei tranquillamente non uscire di casa. Potrei. Penso che troverei tutto il tempo soluzioni o alternative all'uscire. Da sempre sono una che posso passare un sacco di tempo chiusa in casa, chiusa al computer e l'ho fatto per anni. Non posso magari uscire in bici, ma sti cazzi. È che è evidente che io ho un problema con la polizia, le forze dell'ordine, nel senso che... Allora, non è solo il fatto che io vengo... da una dittatura militare dove Improvvisamente, non che io abbia paura della polizia qui, però improvvisamente mi trovo immersa in un sistema di controllo che ovviamente mi risuona cose antiche che mi toccano profondamente le ovaia. E quindi è ovvio che tu mi dici, puoi uscire in bici? Certo che posso uscire in bici, ma poi mi ferma la polizia e io non ci voglio avere niente a che fare. Sei un coglione a cui hanno dato una briciola di potere, non vedevi l'ora e lo stai esercitando contro chiunque ti passi davanti. Condivisione di pensieri e sensazioni al tempo del controllo sociale. Un controllo sociale mai visto per noi, al massimo della sua espressione. E subito pensa a due parole, privilegio e autosabotaggio. Da un lato la rabbia per tutta l'ingiustizia sociale, per tutto il dolore, per tutte le prevaricazioni. Dall'altro il mio corpo inerme, piccolo, gracile, zoppicante, che non ha forza di reagire. Io ho sempre avuto un buon rapporto con l'influenza. A parte il raffreddore, perché quello non l'ho mai sopportato, con tutto il resto, mal di gola, febbre, tosse e simili, non ho mai avuto grossi problemi di convivenza. Da ragazzina, e tutto sommato anche da adulta, lo stato febbrile mi piaceva. Mi piaceva quell'indisponibilità del corpo a non voler fare nulla se non a stare dentro il letto. Mi capitava, durante un'influenza, di addormentarmi il pomeriggio verso le 17, le 18 e di svegliarmi direttamente la mattina dopo. Non mi piace lavorare con l'influenza e ho sempre commiserato i colleghi che decidevano di venire al lavoro anche quando stavano poco bene. Una volta io l'ho chiesto a uno che si mangiava pasticche di vivinci da 3 giorni e non faceva che starnutire. Scusa, ma perché non te ne stai a casa? Perché vivo con mia suocera, mi ha risposto. Poi è arrivato l'8 marzo e sono iniziate ad arrivare tutte quelle immagini dagli ospedali, donne e uomini barbadati fino ai capelli, e poi quei cortei funebri militari e il bollettino della protezione civile tutte le sere. Oggi il solo pensiero di qualche linea di febbre mi fa tremare le gambe. Appena sento un leggero fastidio alla gola, comincio a deglutire saliva 3, 4, 5 volte per capire se mi sta venendo o meno il mal di gola. Dopo un starnuto mi sale un'ansia indescrivibile. Non posso più neanche sopportare un leggero mal di testa. Stanno cambiando l'approccio del mio fisico verso la malattia. En train d'improviser à chacune de mes courses, dans les bras de la liberté, un tas de contrôleurs à mes trousses, portés par le vent. Allez dire aux uniformes sur les nerfs qu'ils ne m'attraperont même pas en rêve. Per evitare il contagio, sentiamo divieti, sentiamo messaggi di terrore e di angoscia, sentiamo numeri ed elenchi di morti, sentiamo teorie cospiratorie, sentiamo ipotesi prive di validità scientifica, sentiamo moniti senza spiegazioni. Sentiamo media inculcare lo spavento attraverso la minaccia dell'invisibile, una minaccia che ci vogliono far credere che si propaghi nell'aria. Riceviamo un unico incitamento repressivo che rimbalza nelle gole di cemento. Restate a casa per evitare il contagio. Udiamo il tuono dell'unica regola, il distanziamento sociale e isolamento. Cronache da un terrazzo. In questi giorni mi sono trasferita sul terrazzo condominiale per una consegna di lavoro che mi richiedeva un certo sforzo di concentrazione a cui attualmente non sono più abituata. È un sabato, alle 3. La città è spettrale. Prima di chiudermi nel ricatto del non tempo e non spazio, dell'apparente autogestione del telelavoro, mi guardo attorno e mi fermo. Come far coincidere l'ansia di ipocondria con il fine ultimo delle lotte? L'ipercontrollo è stato assorbito dalla mia pelle. Dove è finita quella così tanto bella spinta alla contaminazione? C'è. Non è morta. Pianto, semi, rubo pezzetti di pianta e faccio talee, faccio diventare la casa un po' un piccolo bosco, un piccolo pezzo verde, forse sto arredando il tunnel per starci più comoda, forse dovrei non avere niente e stare in un posto brutto in modo da avere uno stimolo a uscire e a rompere di più. È la visione che si rimpicciolisce, avere il mondo che si rimpicciolisce alla casa, alle quattro strade, alla distanza, occhio computer, e quindi comunque la fatica di mettere a fuoco un'immagine più grande. Spero che questo non diventi psichico oltre che fisico e fisiologico in questo momento. Io mi vivo questa fase qui con un'ambivalenza. Da una parte ovviamente una grande preoccupazione rispetto all'esperimento di controllo diffuso, capillare, esasperato che stanno attuando in questo momento e che sappiamo bene che ci ritroveremo, e quindi un grosso punto interrogativo rispetto a come sarà muoversi, agire da qui in avanti. Dall'altra parte però quello che stiamo vivendo, questa esperienza di restrizione di libertà collegata anche a un discorso di un virus e quindi in qualche modo da una reazione dell'ambiente in cui viviamo rispetto allo stile di vita del genere umano. Spazio, vicinanza, biopolitica, cellulare, Facebook, catastrofe, melancolia della catastrofe, privilegio, occidente, morte, vita, resistenza, camminare, radio, vista, immunità, confinamento, sciopero, condivisione. In questi ultimi giorni la mia vita è fatta di gesti che si ripetono uguali. Mi alzo, smonto il letto improvvisato nella sala dell'amico che mi ospita, esco con Zami, attenta a guardie e vicini che possono denunciarmi per essermi allontanata troppo. Lavoro un po' in cantina con Andrea, imbottigliamo. Apro il computer, leggo degli articoli, provo a scrivere ma non ci riesco, leggo un po', riapro il computer, provo a pensare ma la mia mente si inabissa nella spirale di immobilismo innescata dal corpo. Riesco con Zami, bevo qualcosa, leggo, mangio, preparo il letto, mi sveglio, passeggiata con Zami. Zami vuole cambiare strada? No, lì no, passano le volanti, come glielo spiego? È la strada per il bosco. Non è una brutta vita, ma come si può stare bene senza la possibilità di scegliere? Abituale, così come siamo alla possibilità di muoversi, non, in quel momento non ci ho pensato. Ho pensato che non mi sarebbe... cioè che non sarebbe arrivato a me, che comunque non avrebbe toccato le mie idee di andare avanti o come faccio i miei piani. E quando sono uscita dall'Italia, era il giorno prima che chiudessero poi la possibilità di rientrare. Mi sembrava tutto... ancora come se non mi toccasse, che finisse a breve, questa sensazione di invulnerabilità, o comunque che queste cose non ci toccano fino a quando non arrivano proprio addosso, ce l'ho avuta per tanto tempo. Tuttora sento che non vedo nulla, non capisco perché sono in un posto talmente al di fuori, talmente alla fine quasi lontano, cioè non percepisco quello che mi avviene intorno, non ho la percezione neanche di dove sono, e questo mi rende disconnessa, cosa che invece in questo momento in qualche modo c'è bisogno di connessione con altre persone, o almeno la possibilità di immaginare che ci siano, e io sono in una bolla vuota. Tutti questi confini così forti che adesso sono chiusi, ma sono ancora più chiusi, anche più vicino, sono anche nella difficoltà di trovare magari un orecchio che ascolta, una persona che sorride in strada. Sono lontana dall'Italia, ma non lontana dal Covid-19. Ho scelto di non rientrare a Roma dopo un viaggio che doveva durare poco e che però sta cambiando la mia vita. Sento le compagne e non mi sento sola. La possibilità di rimanere in contatto attraverso internet e i social media è un'arma a doppio taglio. Sono ben consapevole che tutti questi media sono controllati. Ma dall'altro lato non voglio tirarmi fuori dall'unica possibilità che c'è in questo momento per sentirsi e mandarsi conforto. Questo mondo virtuale non mi è mai piaciuto e non mi piace, e ho sempre cercato di tenermi più lontana possibile. No Facebook, no Twitter, no Instagram, ma alla fine WhatsApp, Telegram e altre chat sono entrate nella mia vita quotidiana. Il silenzio, le bocche coperte, le labbra, i nostri corpi oscurati e quella comunicazione velata, i micromovimenti del volto, le espressioni incontrollate. Comunicare senza corpi è faticoso, eppure ti fa sentire più sottile nel poter arrivare più lontano, insinuante come un germe. Whose bodies are bodies? Whose rights are rights? Cuerpo de quienes? De nosotras. Derecho de quienes? De nosotras. Decisiones de quienes? De nosotras. Cruda Cubensi, one more time, representing women and queer people. Choices. KRUDAS. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Ripartire e controllare. Dopo 6 settimane diffondono nuovi numeri, cauti ma confortanti, numeri di morti in discesa. E il nuovo monito diventa ripartire, ripartire, ripartire. Non si parla di salute, si parla di economia. Le fabbriche devono tornare alla piena operatività. Non ci sono misure da prendere, non ci sono protocolli sanitari, non ci sono piani per il dopo. La soluzione è la tracciabilità. Il controllo è neutro, serve solo passare alla seconda fase. È un codice anonimo, l'identità non viene svelata. Dov'è la libertà? Quali saranno i nostri spazi di libertà e di lotta? Suono, odore, realismo capitalista, Cthulhucene, sicurezza, decreto, casa, gabbia, riflesso, mente, sogno, sonno, paura, noia, nebbia, filo di fusione, tempo, tanto tempo, Pasqua, congiuntivite. Epidemia, epidemia psichica, morte, bambine, siamo bambine, infantilizzazione, profitto, dispositivi, distanza. Però mi chiedo, a che cosa stiamo rinunciando adesso? Che cosa vogliamo rinunciare? Ai privilegi? Alle comodità? Non so. O addirittura rinunceremo agli affetti, al contatto, al calore. E la nuova consapevolezza sarà veramente questa, che anche di fronte a questo scenario non abbiamo probabilmente la capacità di avere una visione più complessiva. In realtà la consapevolezza del limite ti permette di guardare meglio quello che puoi, anche quello che ti fa stare bene, a interrogare in modo diverso le tue possibilità. E secondo me ci deve far riflettere il fatto che noi non possiamo pensarci, no, come delle persone che hanno un'infinita, come dire, una possibilità di scelta infinita. Non è così. Tantissime di noi vivono già l'esperienza del limite per molti motivi. C'è chi la vive per dei motivi economici, c'è chi la vive per motivi culturali, c'è chi la vive per dei motivi fisici. Io sicuramente ho l'esperienza della malattia e quindi io il senso del limite, come dire, l'ho sperimentato e però mi ha insegnato delle cose. E io penso che questa restrizione che viviamo dovremmo cercare di capire come utilizzarla a nostro vantaggio per vedere le crepe. E anche per vedere le crepe di quello che noi riusciamo, possiamo, siamo in grado di costruire, abbiamo costruito, possiamo fare in questo momento. Forse scegliere sarà un lusso che non ci potremo permettere per ancora tanti, troppi mesi. Forse il nostro nuovo presente è fatto di mezze decisioni smozzicate, movimenti improvvisi e non pianificati. Avremo bisogno di lucidità e determinazione per infilarci negli interstizi dei decreti e difendere gli scampoli di vita che sono per noi imprescindibili. La politica, la comunità, le amicizie, gli amori. Avremo bisogno della nostra intelligenza collettiva per trovare delle strategie per affrontare questo nuovo tempo sospeso tra il prima e un dopo che potrebbe durare mesi o anni, un tempo in cui rimodulare l'idea di relazione e prossimità tenendo conto della paura di contagiare o essere contagiato, il pericolo della vicinanza, la scelta dei nuclei affettivi da cui possiamo ricevere calore e contatto, le nuove forme che la politica si deve inventare per non lasciare il campo alla devastazione che si prospetta tra la crisi economica, le vecchie tecniche repressive e le nuove tecnologie di controllo. Mi avvio verso lo zaino e tiro fuori uno dei libri che mi ero portata per il viaggio. Apro una pagina e leggo. Ci guarderemo bene dall'amare il grande fratello. Lo combatteremo e infine vinceremo. Ogni piccolo attacco nutre il nostro coraggio. Ci dà forza sulla via della vittoria. Create le vostre bande. Radicalizzare, resistenza, insistenza, lotta, vagina, generare parentele, biologia, famiglia, non famiglia, lesbica, vista, schermo, confusione, paura, erotismo. Ho bisogno di poesia per trovare le crepe nascoste dall'intonaco del senso comune, allargarle fino a vivere le fratture pulsanti del corpo senza più trucco, che soffre, si mostra, urla, dà scandalo e ballerà di nuovo libero per le strade. Alla huelga, alla huelga, alla huelga. Porque si nosotras paramos, el mundo se...